Va ora in onda Piazza Alta, un programma di e con Marci e Enzino, alla conduzione tecnica Simone. Une. Grazie a tutti. Si è finito, possiamo andare via, grazie a tutti. Ci siamo. Eccoci, giovedì. No, scusa, che puntata era, Enzo? Quella che abbiamo appena ascoltato. La quattordicesima, finita. Di Piazza Alta, 26 febbraio 2015. Tutti appoggiati sul tavolo. Bene, noi ci siamo divertiti. E voi? È stato bellissimo. Poi stasera la non musica abbiamo detto... azzeccata. Bravissimi. Allora, basta. Hives con Tick Tick Boom dal 2007, questo era The Black and White Album. Vabbè, e la serata inizia alla grande. Allora, probabilmente stasera avremo l'ascolto più alto di tutti i tempi, perché in otto sono qua. Bellissime, ma sono tutte bellissime. E donne. Soprattutto che questo perché ora la donna è donna. E finché i nostri radioascoltatori non visualizzeranno il video della serata sul nostro canale YouTube, non se ne renderanno conto. Ma noi adesso cosa facciamo? Introduciamo la serata. Allora, intanto, qual è l'argomento di questa sera? Aspetta, stai calmo. Intanto ci urge fare un ricordo a un artista. Il mio cuore si stringe di tristezza, perché io l'ho menzionato più di una volta nelle puntate precedenti. Simone avrebbe pensato di mettere qualcosa del genere, però siccome scherziamo tutte le settimane riguardo alla musica che mette Simone, Marcello ci fa un po' di storie sopra e lui dice che voleva, dice sempre che avrebbe voluto ascoltare Rondinella. No, dico, ho sempre detto che la qualità da Giacomo Rondinella in poi è molto scaduta nella musica italiana. Ecco, oggi purtroppo è venuto a mancare. Però aveva 91 anni, quindi e noi gli mandiamo un ricordo. Un ricordo. E questa era Malafede. E che sia di monito a Simone per le prossime selezioni musicali. Un saluto a Simone. Ciao. Ciao. Allora, ringraziamo, bellissima. Io l'ascolterei tutta, ma non è il caso. Ce la riascolteremo a casa. Allora, questa è Radio F, questa è Piazza Alta, ci possono ascoltare. Ed è giovedì sera, come sempre accade una volta alla settimana. Ecco, esatto, ma stasera non possiamo non parlare, se la tecnologia mi aiuta, perché stasera fa brutti scherzi, del carnevale. Ecco, non è che sia un argomento sempre nuovo di qui, ecco, insomma, parla tranquillamente di qui le ultime tre settimane, ma non è nuovo perché evidentemente ci sono tantissimi argomenti di cui ragionare. Posso provare anche a venirti in aiuto? Aspetta, insomma, no, venirti in aiuto non è la frase adatta. No, allora con calma, ragioniamo. Allora, io piano piano introduco questo argomento, e detto anche così non è bello, però allora, è carnevale, perché in tutto il resto del mondo il carnevale è finito da due settimane, e da noi continua in eterno praticamente. Certamente. E domenica ci sarà l'epilogo, la sfilata più importante. Il mesto ufficio della verrà a mancare, ci sarà la cremazione e verrà letto il testamento e verranno letti anche finale. I verdetti. Esatto. E allora non è possibile stasera. Aspetta, ora faccio così. Se faccio mi velocemente. No, zitto, ti dico io. Allora, il verdetto sarà quello sui carri, ovviamente, ma anche sulla mascherata. La mascherata è una parte importante del carnevale. Attenzione! Forse ci si fa. La mascherata di carnevale, colorata ed elegante da sempre. La mascherata di carnevale, un'icona dei nostri tempi. Una sfilata di colori, di suoni, di movimenti. Una boutique a cielo aperto, mani esperte che vestono in un tourbillon di colori e di tessuti l'umanità del carnevale. La mascherata di carnevale, un segno che a Foiano sotto sotto il bello gira a grandi livelli. Questa sera a Piazza Alta. Give me a reason now, a reason to stay. I gave all of my life. Questi erano i Sid Arthur con... aspetta, perché stasera voglio andare contro ogni... aspetta, con... Hometown Blues. Hometown Blues. Questo è l'ultimo brano... aspetta, stai zitto. È il brano numero 2, la traccia numero 2 del loro ultimo album, uscito da pochissime settimane. E loro vengono da Canterbury. Vero Simone? Sì. Bravo. Dov'era il gobbo di Notre Dame? No, vicino a Canterbury. Allora, finalmente, donne... no, nel senso, chi ha visto già su Facebook stasera ti sento un po' a disagio, Enzo. Chi ha visto... forse perché i nostri ospiti di stasera sono tutte donne e non sono abituato. Allora, ecco, diciamo che se fossi riuscito, diciamo, a parlare nell'intervento precedente, ma avevo dei problemi tecnici, avrei detto che stasera parliamo appunto delle mascherate dei carri di carnevale, dei e cantieri. Perché ne parliamo? Perché hanno assunto un'importanza fondamentale nell'ambito della manifestazione carnevalesca di Foiano. Sì, perché tanti anni fa l'unica cosa che si faceva era il carro, la cosa più importante, poi negli anni piano piano sono diventate sempre più importanti le coreografie, e la coreografia per eccellenza per noi per il carnevale è proprio la mascherata, fatta di persone umane in ciccia ed ossa. Sì, quanto sta per ore ti ascolterei. E qui stasera abbiamo una rappresentanza, direi. Ovvia, ce le vuoi presentare tu, Massi, come da scaletta? Potrei parlare dalla mia sinistra, come vedrete presto sul nostro canale YouTube Piazzata. Tanto questa sera gli altri riferimenti non li abbiamo dati, ma ormai abbiamo, li sanno. Per ogni cantiere due rappresentanti. Accanto a me c'è Virginia ed Elena del cantiere dei Nottamboli. Ciao. Questa è la loro voce così, dal vivo. Poi abbiamo Silvia e Simona del cantiere dei Rustici. Ciao a tutti. Hanno fatto anche ciao con la manina. Paola e allora abbiamo Sabrina e Paola del cantiere degli Azzurri. Ciao. E poi Barbara e Sara del cantiere di Bombolo. Ciao. A questo punto sono aperte le votazioni per qual è, diciamo, l'urlo più grande. Sono preoccupatissimo, eh? Sì. Allora, iniziamo con calma, voi due soprattutto. Hai anche scelto, Enzo, eh? Allora, io direi, Enzo, di fare subito le regole della serata. Vai. Alle domande intelligentissime che tue mie, ma anche le tue perché te le ho scritte, diamo la possibilità di parlare a tutti, ma mettiamo anche un minimo di tempo. Ma sì, vabbè, diciamogli di sì, nel senso. Vabbè, gli è sempre piaciuto fare le tribune politiche, non l'abbiamo potuto fare. Lo sai che due donne e un pignato. Attenzione, io non il mercato è belle fatto. Potete picchiarlo, potete picchiarlo. Iniziamo subito con una domanda semplice. Partiamo da Virginia e arriviamo fino a Paola, così l'intero emiciclo. Allora, secondo voi, ma questo è per mettervi un po' a vostro agio, chi vince la mascherata? Virginia, ecco. Io non penso, cioè io sono molto obiettiva, almeno credo. Secondo me i Rustici. Ok, segnate intanto a casa, mettete intanto, delle X. Scusa Simona, se gli vuoi dare quello che gli hai promesso. No, nel senso, sono orgogliosa ovviamente del mio gruppo e di tutti i progressi che abbiamo fatto, però riconosco che c'è anche chi magari è meglio di noi. Ok. E vedendo i video, Rustici. Benissimo. Incredibile. Ah, tra l'altro anticipo che sulla nostra pagina Facebook proprio avremo tutte le foto di tutte le mascherate. E quindi chi ci segue può anche godere, diciamo, dare un'immagine... Sì, con parole tua dare un'immagine a quello di cui stiamo parlando. Tra l'altro ringraziamo Marcello Fatucchi perché dal suo sito stiamo prendendo tutte le foto che sono molto belle. Elena, ovviamente in cuor mio spero in Nottamboli, però tanti di cappelle Rustici. Ragazzi, non dobbiamo essere così diplomatici, io voglio vedere sangue scorrere, eh? Beh, ecco, passiamo la parola ai Rustici, vediamo se altrettanto sono così. Simona. No, io sono molto orgogliosa di quello che abbiamo fatto, sono proprio contenta di quello che abbiamo portato in piazza per quanto riguarda sia il balletto, che i costumi, che tutta l'atmosfera, sono contenta. Non dirò mai chi penso che vincerà perché non mi voglio gufare, spero tanto di vincerla, però credo che quest'anno il livello delle mascherate sia stato molto molto alto e quindi veramente complimenti a tutti, veramente. Benissimo, aspetta che giro il microfono per Silvia. Siamo proprio in campagna elettorale. Sì, sì, non mi piace per niente la piega che ha preso questa trasmissione, eh? Silvia. Offendi qualcuno? La solita domanda. Sì. No, ma il giro lo faccio per tutti uguali. Sì, perché queste sono le prime schermate. Dopo. Sì. No. Anch'io, come tutte, sono orgogliosa di quello che si è portato in piazza. Mi sembra giusto. Però sono un po' scettica. Hai qualche dubbio? Sì, su delle cose, no, però so... questo sospiro vale più di mille parole. Dice Sabrina, degli azzurri. Io dico che quest'anno noi abbiamo fatto una bellissima mascherata confronto agli anni passati e credo che... mi auguro insomma di vincere, mi auguro di andare in ballottaggio con i personaggi di Bombolo, perché per noi le mascherate di Bombolo sono il top e siamo sempre a concorrere contro di loro perché loro vincono sempre, e mi auguro però di vincere noi. Ecco, ecco, riprendi tutto Paolo, riprendi tutto. No, allora dico questo, siccome molti mi conoscono, no, io stasera qui sono esclusivamente un conduttore radiofonico, quindi io non dirò niente né a pro e contro nessuno. Dico solo per la verità è gli ultimi due anni è vero che ha vinto Bombolo, precedentemente ci sono stati altri cantieri che poi diranno loro chi sono, che hanno vinto molto, e però diciamo che bene o male negli ultimi anni il livello posso dire che realmente si è molto alzato quest'anno senza dubbio. Passiamo alla Paola, così facciamo sì, finiamo il giro perché poi ho delle domande da fare. Paola, secondo me, siccome ci siamo migliorati moltissimo, l'Azzurri quest'anno ha possibilità di vincere, anche se gli altri cantieri, cioè, c'è da dirci niente, i rustici sono rustici in quanto a vestiti, in quanto a tutto, questo bisogna dirlo. Bene, però no, la mia speranza, certo, è di arrivare alla vittoria noi, ovviamente. Allora poi passiamo al cantiere Bombolo. Barbara, secondo te? Allora, io non sono per niente diplomatica e dico che vince Bombolo. Certo, giusto. No, anche se riconosco, come ha detto prima anche la Simona e la Silvia, che le mascherate quest'anno effettivamente sono di un livello tendenzialmente più alto degli anni passati. Io spero di vincere, perché comunque anche quest'anno secondo me si è portato un minimo, cioè una cosa che è un po' al di fuori di tutto il resto. Il fatto del muro. Dopo ve lo chiediamo, infatti. Quindi che... io ci spero, poi sinceramente è chiaro che fino a domenica non si può sapere. Ah, questo è chiaro. Sara, a parte io so già tutto, ma insomma voglio dire. Scherzo, Io ci spero. Secondo me vince Bombolo perché non sono diplomatica e niente. Basta. Io sono contenta. Per me è andato tutto bene, però siamo tutti, anche tutte bene. Ma sì, non puoi fare altre domande, perché tanto io lo so. Un po' di musica sì, potrebbe essere una domanda a intervento, non ce la faremo. E allora music. Buon ascolto. Blazer. E prima avevamo ascoltato dall'album The Black and White, adesso ascoltiamo White di Carlo Barbagallo, l'amico Carlo Barbagallo, con cui abbiamo passato una straordinaria serata in compagnia lunedì scorso. Buon ascolto. Questo è dall'album del 2011, Quarter Century. Dal 1976. Oh, come avete capito, voi che ci state ascoltando, sarà una lunga serata, perché il primo intervento è durato 7 minuti, normalmente dura 4, e andrà così per tutta la sera. Ma perché? Siamo ma perché? Due perché uomini interessanti. E 8 donne, per cui e togliendo ce la anche, tenendo tutta, anche le braccia così sarebbe perfetto. Guarda questo programma, perfetto, ma non è possibile avere tutto dalla vita. Ok, allora, parliamo di mascherata. Mascherata, Enzo, dacci qualche ragguaglio, perché chi ci ascolta potrebbe anche non essere addentro. Assolutamente, ai tecnicismi, ci ascoltano da Milano, da Svizzera, e ai regolamenti che portano che portano alla celebrazione, alla rappresentazione della mascherata, per poi avere la giuria che. E via e via. Okay. Benissimo. Allora, tanto lo so che va a finire sempre così. Allora, in che cosa consiste? Abbiamo questi quattro carri che ormai tutto il mondo sa, e davanti abbiamo queste quattro mascherate che, come dicevamo prima, negli anni sono diventate sempre più belle, fino al punto tale che alcuni anni fa è stata organizzata proprio una giuria vera e propria che giudicasse solo le mascherate. La giuria è composta da quattro elementi, e ora, care le mie ospiti, che mi sono dite aria, terra, fuoco e vento. Quattro elementi che sono coreografo. Costumista. Sì, tutti insieme. Giornalista. Che meraviglia. Allora, quindi questi quattro. Questi quattro danno una classifica dal primo al quarto. Il primo prende 5 punti, il secondo 3, poi 2, poi 1. Si fa la somma e ecco che viene stilata la classifica. Detto questo, ci vuole una cultura per avvenire al carnevale a Foiano, veramente. E cosa si vince? Cosa si vince? Ecco, questo è interessante. Una targa. Una targa e un rimborso. E un rimborso, cosa che non succede per il carro. Pensa a te, caro mio Marzi. Nella mascherata viene dato un rimborso anche al quarto classificato. Ovviamente l'entità è differente, però diciamo che c'è anche questo. Ma ora basta parlare noi, facciamo parlare loro. Allora, iniziamo random. Sì. Facciamo con la bottiglia. No, da quante persone. Stasera sei senza freni. Dai, una calma. C'ho delle app che mi scaricano cose. Da quanti elementi è costituita la vostra mascherata? Vai. Bombolo, allora, Sara bombolo. Di Bombolo. Bombolo. 146. 146 veramente? Elementi. Tante così. Se considera anche il mio fratello. Allora, 20 uomini. 20 uomini. Quindi non era mai successo. 146 persone che sono vestite. Nostra. 146. Che hanno il vestito della mascherata. Sì. Esatto. Sì. E che fanno la 83 donne adulte, insomma, 42 bambini e 20 uomini. Mi sembra. 43. Azzurri. Quanti? Azzurri. Un'ottantina. 80. Rustici? Un 125, mi sembra. Ok. Numeri veramente importanti. Alti. Nottambuli? 70. Pochi ma buoni. Spieghiamo, non è che ci siano simpatie. Cioè, diciamo che storicamente ci sono dei cantieri più numerosi, che sono quelli di Bombolo e di Rustici, e quelli un po' meno numerosi, ma la quantità non vuol dire assolutamente niente rispetto alla qualità. In ogni caso, Enzo, di Marcello stasera a me. In ogni caso, i numeri che abbiamo appena dato danno anche l'idea della partecipazione alle mascherate, perché chiaramente non tutti coloro che sono attivi nella preparazione della mascherata magari sono anche vestiti, assolutamente, però partecipano a tutta la fase di preparazione e di svolgimento della gara. E mi fai un assist meraviglioso per la prossima sono domanda. Sono un po' qui per questo. Insomma, allora, quante persone lavorano per realizzare i vestiti? Perché parliamo di 140, 120, ma anche 70, 80, c'è da cucirli tutti, c'è da allestirli, imbastirli. Ditemi un po', ecco, quante persone lavorano nella mascherata? Partiamo. Tre. Io ho fatto tutta una storia. Pensavo bene. Dai, Nottamboli in tre. Vuoi ricordare i nomi, se vuoi? Allora, io Virginia, Elena Poggini, Marta Vallini e poi l'aiuto della Sartana da Berretti. Ok. Ci siamo sfatte tutto il gel con la colla a caldo per attaccare il tulle, però insomma è stato un bel risultato. Vero, vero. Rustici. Noi ora saremo una decina, penso, tra chi taglia, chi cuce, chi fa modelli, chi fa le coreografie e niente. Tutto okay. Produzione propria, certo. Azzurri. Noi quest'anno siamo stati 17-18 persone, perché si è creato un bel gruppo anche per fare i copricapo, e ringrazio tutte le donne che sono state a casa, diciamo, a fare i cappelli la sera, che mi faceva il doppio turno dalle 5 alle 7 e dalle 9 all'1. E veramente ragazze e donne splendide, che si è creato anche un bel gruppo, una bella amicizia, e siamo, il risultato è stato bello anche per quello. Bene, bene. Bombolo. Bombolo siamo 7-8 persone che si occupano tendenzialmente della mascherata, compresa una sarta esterna che ci aiuta anche nelle coreografie. Sì, perché poi parleremo anche delle coreografie, perché prima, una volta, caro Marzi, lo dico a te che stavi a casa la domenica perché eri triste e poi hai conosciuto me, sei diventato allegro. Una volta praticamente si andava in piazza e si dondolava o poco più davanti alla musica e così. Caro Enzo, dimmi. Ti dirò che ci sono in giro delle foto che mi raffigurano con un vecchissimo vestito da Zorro, da papavero. Quindi Simone, quindi sul papavero è... di Marcello, pensa, era vero che ho avuto un periodo buio, il mio medioevo, però in origine e il pistillo eri tu con i capelli, esatto. Pensa, si parla della preistoria, altro che del medioevo, la preistoria. After midnight, we're gonna let it all hang down. After midnight, we're gonna chug a leg and shout. We're gonna stimulate some action. We're gonna get some satisfaction. We're gonna find out what it is all about. What it is all about. What it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang down. After midnight, we're gonna shake your tambourine. After midnight, after midnight, after midnight, so go be peaches and cream. After midnight, after midnight, don't cause talk and suspicion. We're gonna give an exhibition. We're gonna find out what it is all about. What it is all about. What it is all about. Ah! After midnight, we're gonna let it all hang down. Shake your tambourine. We'll shake a tambourine. We'll shake a tambourine. After midnight, so it's gonna be peaches and we'll cream. We'll shake a tambourine. We'll shake a tambourine. Don't cause talk and suspicion. We don't give an exhibition. We don't find out what it is all about. What it is all about. After midnight, we gon' let it all hang down. After midnight, we gon' let it all hang down. After midnight, we gon' let it all hang down. Era il 1970. Questo era Eric Clapton. E la canzone era, aspetta che la leggo, After Midnight. Ma senti, stasera dopo mezzanotte tutto fluisce, fluisce, veramente. Fluisce. Ah, dopo mezzanotte. Con quello spritz proprio lo slang. Che ha funzionato. Stiamo continuando a pubblicare foto su Facebook delle varie mascherate. Ci sono già alcune persone che hanno messo mi piace, ma le salutiamo dopo. Ma ora continuiamo a parlare delle mascherate. Abbiamo qui una rappresentanza egregia, nutrita e piacevolissima, gradevolissima, perché sui fuori onda cosa? Ne ascoltiamo no, perché se dici no, così ne ascoltiamo di più, di tante di più. E perché ricordiamo, siamo con le rappresentanti dei quattro cantieri, due per cantiere, otto donne. E quando mai l'hai vista, Marzi, tutte no, insieme? Ma soprattutto perché ti sei fermato e non hai preso il diploma, perché eri veramente su nei conti, sei veramente ferrato, bravo. Grazie. Vuoi fare una domanda intelligente? Sì, io una di quelle che ti ho scritto io? No, ti stupirò. La mia curiosità è questa. Volevo sapere, i tessuti dei vestiti che fate, che utilizzate per le per la mascherata. Ma sì, comprare perché... scusa, perché mi ammali quando parli. Io no, te sei ammalato. Ecco, volevo sapere i tessuti di che tipo sono e poi come vengono anche un po' confezionati e via via. Può bastare, può bastare, no? Sì. Guarda, troppa intelligenza tutta insieme non la posso esprimere. Partiamo da Bombolo, ma così si fa il contrario. La capita la domanda? No. Allora, i tessuti, i nostri tendenzialmente sono quasi sempre o raso o licra, o tulle, che sono le stoffe che hanno dei prezzi un pochino più accessibili comunque, perché bisogna mantenere dei prezzi, insomma, che non siano problematici poi per la gente per acquistare. Per la produzione in serie. Bravo, perfetto. E poi niente, vengono fatti i modelli, il cartamodello e vengono cuciti. Aspetta, non fare altre domande, poi facciamo rispondere prima le altre, perché cioè, poi mi è venuta a me una domanda intelligente, sembra strano. Stranissimo. Puoi registrare, scusa, azzurri. Perché... Azzurri. Paola. Allora c'è il raso, il tulle, quest'anno ci sono anche altri accessori per i cappelli. Però è un segreto, non si possono dire. Ah no, non lo so. Non accessori per i cappelli ci sono, c'è il piume, c'è il tulle, okay. C'è la stoffa. Bene. Anche qui viene fatto il modello e poi dopo viene fatto. E la piuma con che cosa la fate? Dai cinesi. Si va a pelare degli struzzi. Che io sono andata a comprare le piume dai cinesi. No, la francese è andata a comprare le piume dai cinesi. Fagiani. E non riuscivano a capire perché loro intendevano i fili de fiume. E noi i fili de piume. Francesca è stata 35 minuti a discutere con i cinesi. Un saluto a tutti i cinesi che ci ascoltano. Per capire i fili de fiume. È cultura anche questa. Anche questo. Rustici. Tessuti in genere sì, come tutti, licra, raso, tulle, ma anche tanta gomma piume e tanto fil di ferro. Fil di ferro? Sì, fiumi di fil di ferro quest'anno. Però. Solamente un 300-400 metri di fil di ferro. Però. E i nottamboli invece che usano le raspe, cioè non... gli scarti di quell'anno. Non no. Fare così. No vabbè, tendenzialmente gli stessi materiali degli altri. Quest'anno ci siamo buttati sulla ciniglia. Ah, il tuglio. Ciniglia, ah, è calda, quindi d'inverno, sì, va benissimo, c'è. Perfetto. E tanto ferro. Anche ferro voi. Rugosi, infatti l'ampiezza dei, ecco, nostri vestiti. Ecco perché quando 2 settimane fa c'è stato un piccolo problema al carro dei rustici. E purtroppo eravamo noi che... E ballavate insieme, vedevo le scintille. Ma perché era il fil di ferro con sì, il ferro. Sì, col ferro. No, sto scherzando, ci mancherebbe altro. Però la domanda più importante la fai dopo. Ora volevo farne un'altra. Voi quando scegliete di fare un vestito, lo scegliete per quale motivo? Io lo so, ma facciamo per farlo sentire anche chi ci ascolta a casa. In base al carro, cioè che vuol dire? Che arriva qualcuno e vi dice quest'anno si fa questo carro. Si prende spunto dall'idea del carro, dal base progetto, al progetto, in base al progetto viene l'idea della mascherata. Per esempio, mi viene in mente i nottambuli, però correggetemi se sbaglio perché io domenica sono un po' confuso. Voi siete il proseguimento, esatto, del mare che c'è sul carro. Tendenzialmente ogni mascherata è sempre il proseguimento del carro, insomma, però. Invece i rustici, per esempio, che cosa rappresentano? È di difficile interpretazione il nostro, è vero, rappresenta l'eleganza, il vestito delle donne. Okay. Praticamente l'eleganza c'ha un richiamo sia al giullare per il cappello, sì, il cappello rosso, sia il nero, comunque l'eleganza del cervo, del carro. Okay. E quindi è un mix tra queste due figure. Okay. E poi oltre alle morti che avete davanti, quelli, sì, con le falce frenaie. Okay. Sì, e i bambini che sono tutti giullarini, insomma, davanti, che sono tantissimi. Sì. Bombolo? Bombolo sono proprio curioso, ancora non l'ho capito. Bombolo rappresenta i bambini del Via di The World. Inizialmente. Quando dopo è crollato il muro si rappresenta la libertà. Ok, perché voi avete, ora scusa, avete apportato una cosa che magari ancora non era... Non lo dico perché l'avevo già detto io prima. Esatto, c'è un particolare che ancora a mia ricordanza non c'era mai stato nelle mascherate. Cioè questo muro che viene montato e che crolla è una struttura. Sì, che sono 16 scatoloni che rappresentano praticamente i mattoni. E 16 persone portano ognuna un mattone che simboleggia appunto i mattoni che ognuno può avere nelle costrizioni che ti impone un po' la società. Ecco, vanno a costruire questo muro e quando a un certo punto crolla. Come rappresenta quello che rappresenta il carro è che appunto questo Papa sembra che voglia, sembra anche che ci stia riuscendo ad abbattere tanti muri. Ok, e invece gli azzurri? Noi siamo le Fenici, si fa il proseguimento della Fenice, poi abbiamo il nostro coreografo Claudio che fa... che tra l'altro trasmette qui Radio F il mercoledì, che salutiamo, che stasera da, 1976. Aiutami. Il Claudio Minotauro. Minotauro, sì. Minotauro, sì. Poi abbiamo l'uomo, diciamo, il bene. Il bene. Che e avete anche quattro ragazzi. Abbiamo quattro arpie. Okay. Quattro arpie che rappresentano il male, che circondano la Fenice e poi fanno tutto il combattimento insieme a al Minotauro e poi arriva questo bene. Quindi chi, per chi ci ascolta e magari non è mai venuto a Fogliano, potete ben capire che si tratta di vera e propria scenografia ormai. Come dicevo all'inizio, non è più uno scorrere in avanti con il carro, ma addirittura ogni tanto il carro si adegua allo scorrimento delle mascherate. È incredibile, Enzo. Massimo, pensare che io mi vesto al buio. Ecco, direi di mandare un'altra canzone. Certo. Lasciamoci sempre con queste, massime di Marzi, che proprio rendono la puntata musica. Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Passing Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he looked into my eyes. Lord knows, to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. No matter how hard I try, when he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Lord, only was. Yes, he was. Dusty Springfield, Son of Preacher Man. Pensa che questa canzone è del 69, dal 1976. Buon ascolto sulle F frequenze. Oh, bravo, ora ti la pasticchina, siamo a posto. Pensa che fu rifiutata da Aretha Franklin. No, sono rilassato perché domani vado dall'analista. Normalmente è quando esci. Ma a me già il fatto di doverci sapere che c'ho l'appuntamento mi tranquillizza. Saluto e me ne vado. No, Marta, Michele, che ci ascolta da Bologna, da Reggio Emilia, anzi. Incredibile. Ecco, ciao Michele. Ciao Michele, ecco, beh, basta. Poi gli altri li saluto dopo perché stasera l'iPad fa quello che gli pare. Hai un dito prensile, sì. Proprio veramente. Avevi una domanda intelligentissima. Sì, Marzi. Io devo dire che la serata di questa sera l'ho fortemente voluta perché sono veramente. Ti sei anche impegnato per organizzarla. Sì, sì, è vero, è vero. È vero, è vero. E sta avvenendo veramente bene, come me l'ero immaginata. Perché secondo me questi vestiti e tutta la mascherata sono veramente delle piccole opere d'arte a sé stanti. E la domanda che io mi facevo e da cui ho iniziato, insomma, a coinvolgere i miei amici qui della radio è: belli vestiti, ma sotto che cosa porta? Cioè, perché no, ma ha un sembra senso, una domanda stupida, ma non ha è un senso questa cosa, perché comunque Carnevale viene in un periodo come quest'anno piuttosto freschino e il prossimo come anno, tutti gli anni, vi preparo, sarà anche peggio, e quindi anche visto che voi state in piazza anche un bel po' di tempo è importante, diciamo, avere l'abbigliamento giusto. Cosa c'è sotto? Dite. Chi inizia? Strati parte io. Voi, i nottambuli che si mettono? Le nottambule che si mettono sotto? A parte il pigiama, no? Cioè, se mi sentono in cantiere mi offendono, mi dicono che sono antiestetica, perché parto da casa con un paio di mutande e il body, poi pensavo parto con un paio di mutande. Cioè, c'ho le mutande, il body, le calze perché fanno l'effetto pancera, poi sì, ho le calze blu che per il vestito, e poi c'ho un paio di mutande blu che mi coprono le cuciture delle calze se eventualmente mi salza il vestito. Oh, qui questo, però questa, a me interessa questo dell'effetto pancera, ecco. Mai dopo lo approfondiamo un po' antisesso, diciamo. I rustici invece più o meno siamo lì, l'effetto pancera c'è comunque. Beh, oh, d'altronde maglioni a collo alto, io quattro domenica, quattro maglioni a collo alto, dai due a quattro maglioni azzurri. Allora, iniziamo. Della tuta, noi siamo quelli non vestiti, perché ci sa il pantalone della tuta e un maglioncino di pile sotto. Basta. Vedi, perché loro bevono prima, magari fanno il fuoco. Bombolo. Io poi. Cioè, io poi. Senza, no, per esempio. Per esempio le magline termiche, i body, il golfino di lana, il pile, quindi comunque il messaggio, il messaggio comunque è che alla salute ci teniamo, è bello il carnevale però andiamo coperte, va bene. È vero. Volevo fare un'altra domanda, ricordarla però non sarebbe niente. E invece la io ce l'ho, perché mi interessa anche capire la coreografia, proprio i movimenti. Quello volevo chiedere. Ma io forse e te perché siamo ce l'abbiamo purtroppo troppo uniti, troppo stiamo condividendo troppo, Enzo, quasi quasi dico sì a Carlo Conti, guarda. Sì. Applausi. Ormai in terrazza. Falla, falla. Ah, non l'hai già fatta la domanda? Sì, se mi hanno ascoltato, sì. Allora, lui ha delle idee. In italiano corrente, esatto, lo puoi fare. Allora, abbiamo detto molte volte questa sera che assistiamo a delle vere e proprie coreografie. Ecco, come arrivate a farle? Chi le studia e quante prove fate? Perché parlando di sé da 70-140 persone, per metterle, non dico tutti nello stesso verso, perché io vi vedo e non è che andate tutti dalla stessa parte, però parecchi sì. Come fate? Partiamo da di qua. Sì. Azzurri. L'Azzurri è stata fatta da Biagi Claudio e abbiamo fatto 4-5 prove. Ok, perché evidentemente il ballo ce l'avete visto. Siamo sangue. Stati bravi, no, noi. Bene, bene. Il maestro è bravo, certo. Bombolo. Noi siamo stati meno bravi, allora. Perché noi si sarà fatto una mesata di prove quattro sì. volte alla settimana. Una roba da lavoro? Sì, da un lavoro. Secondo lavoro. Perché all'ultimo uno aveva la nausea. Ma perché tendenzialmente la gente non sempre ti viene tutta. Quindi guarda, diciamo che tu, alcuni non vengono proprio mai. La fai tre volte sperando che almeno una volta la vedi, almeno una persona, o tutti la vedono. Quindi non sei mai tutti insieme. Quindi comunque per vederla nel totale non è quasi mai possibile. Ok. Ci sono sempre queste problematiche. Però diciamo che noi orientativamente si sono fatta tre settimane prima del carnevale, tre volte alla settimana, qualche volta anche quattro. Incredibile, Enzo, che sta venendo veramente fuori che una cosa un seria, lavoro. Una cosa seria, un come il carnevale, come il carnevale è un lavoro diventato. Che uno potrebbe rischiare il lavoro vero. Lui no, ma anche sì, noi c'è parecchio assenteismo, sì, questo è un problema che quello dopo tutto. Rustici. È un la prossima puntata faremo mascherati assenteismo. L'assenteismo. Problema. Enzo, l'assenteismo nel carnevale. La piaga dell'assenteismo. Rustici. Io penso che ogni volta sia un miracolo quando riusciamo a portare una mascherata, far ballare 130 persone, comunque più o meno a tempo, è sempre un miracolo. Perché pensate che ci sono bambini da un anno, da un anno e mezzo, e addirittura abbiamo anche qualche nonna che si veste con i bambini. Quindi sono miracoli, nessuno di noi è un ballerino, riusciamo certo. a fare delle cose belle. Le prove ne abbiamo fatte tante, anche noi, non forse quanto Bombolo, però ne abbiamo fatte tante, però è sempre, sono faticosissime, però danno tanta soddisfazione, perché poi vedere in piazza quello che viene fuori è sempre bello. Insomma. Ma le prove le fate nell'ambito proprio del cantiere? Palestre, oppure ci sono palestre, sale delle chiese, c'è una sala che si va. Che io penso qualche volta crocefisti di tutto di più, perché lasciamo perdere. I nottambuli hanno fatto, cioè a fare la coreografia siamo state noi in casa. Abbiamo provato dappertutto, anche nello scantinato di casa mia il freddo e il gelo. come sì, lì avevate provato la, la tenuta della, dell'abbigliamento evidentemente la prova look. Sì, e niente, ci vengono i passi così, un po' improvvisiamo, e la vera rivelazione sono state le piccoline che si sono davvero affezionate al gruppo e ci seguono. E poi sta nascendo un qualcosa che va oltre la mascherata e di cui sono veramente orgogliosa. Ad esempio usciamo insieme la sera, siamo diventate davvero un bel gruppo e mi piace come cosa. Ecco, io su questo posso dire da esterno che effettivamente sta diventando una cosa molto importante da tutti i punti di vista, come diceva giustamente Virginia, perché il fatto che magari qualche anno fa provavano due volte, adesso provano 53 volte, iniziano anche a frequentarsi extra mascherata, qualora ci fosse tempo ancora di essere extra mascherata. Sì. Vuoi dire una cosa intelligente e poi mandiamo un brano, Marzi? Il silenzio calò nella sala. La riconosce Marzi. Penso, ci siamo, piano piano ci siamo. Lo stiamo Simone, portando lo dalla stiamo nostra parte. Veramente plasmante. Sweet no, dreams. La tua no, perché lo rovineresti. Quindi. Eurythmics, tra l'altro, voglio dire, del 1983. Ok. Mi si è sciolta una scarpa, lo potevo dire. Perché? Ma non lo so, sta da sedere, è orribile. Non ci affliggere con le tue amenità. Oh, siamo arrivati, tanto io lo sapevo che stasera non riuscivamo a fare niente, o meglio, abbiamo fatto molto, ma avremmo potuto fare molto di più. Hai broccolato finora, no, devo dire. No, intanto accontentati, no? Aspetta, se vediamo se ci riesco, prova a salutare un altro po' di persone. Virginia, Marica, Barbara. Bravo, Barbara. Aspetta, perché l'iPad stasera poi ce l'ha con me. Penso aspetta. Che il tuo iPad c'è Samantha, Deborah, Gabriele, Michele, Veronica, Enea, Damiano, Chiara che ci ascolta da Roma. E chi e chiedeva più ne menta, ma poi ce ne sono altri, ma ora tanto è inutile, non ce la faccio con questo. Ma visto che siamo arrivati quasi alla fine, fuori onda ci stavate raccontando delle cose che sono accadute durante le sfilate oppure prima, per esempio la difficoltà che avete voi voi chi? I rustici, scusa perché nella vostra spiega cosa fate, così e poi abbiamo quella... coperto interamente la mascherata, che non è da poco, con un telo nero per riprendere appunto il motivo del carro che viene aperto con una morte, con una falce, quindi. E quindi la difficoltà è stata nel togliere questo telo, specialmente la prima fila, quella che era davanti, perché doveva proprio tirarlo da terra e alzarlo. Dopo, una volta alzato, da dietro l'avrebbero tirato. E devo dire che nella seconda domenica si è un po' intrigato nei cappelli, però vabbè. Ce l'avete fatta. Risate, sì, vabbè, ce l'abbiamo fatta. Altri drammi avvenuti, per esempio, nella mascherata di Bombolo, la prima domenica, quella meno importante, sì. Davanti alla giuria. Davanti alla giuria, nella costruzione del muro. Del famigerato. Del famigerato muro. Tra l'altro di fronte aveva il titolo del carro, cantiere, quindi, Bombolo, basta poco, il muro cade, quindi doveva essere costruito in maniera corretta, quindi dietro era numerato, sbarrato, segnato. A Andrea gli fu detto di montarlo sempre da destra verso sinistra, e lui l'ha montato da destra verso sinistra, da sinistra verso destra. Come fu? Come quindi non fu? Alla terza fila avevamo capito che non tornava il titolo. Io ho sentito un bercio a un certo punto, che ha detto "Nove!" E era Enzo. Che non conosco. Comunque può capitare di costruire un muro non perfetto, per questo ci saranno i condoni, non vi preoccupate. Noi siamo tutti in silenzio ad ascoltarti, Mazzi. Ma perché siete persone intelligenti? No, perché parti con un tono intelligente e poi per fortuna torni a essere quello che sei. Mentre invece abbiamo scoperto che i nottambuli stamani hanno fatto qualcosa, spiegatecelo. Virginia. Si è fatto un video per promuovere la scena di sabato, la scena di pesce. E come avete fatto? Come lo volete pubblicizzare? Una scena di pesce. Sì, ringrazio Gian Felice e Vendepane a proposito per l'aiuto. Dalle 9:30 di mattina fino al tocco, come direbbe la mia nonna, siamo andati. Anche Marcello. Non sono il suo nonno. Siamo andati al fiume per fare detta così, Virgia Foiano. A fare finta di pescare, ma il pesce non c'era, perché noi nottambuli l'avevate già pescato tutto. Avevamo preso tutto per la cena. Basta andare quindi su YouTube e ci vedete, cantiere nottambuli, il canale. Ma comunque ti volevo tranquillizzare. Il pesce al fiume, forse la tua nonna si ricorda da quant'è che non c'è. A questo punto, per par condicio, ricordiamo che i rustici hanno un pranzo domenica. E siamo già 298. Ecco, non fare la furba. Bombolo c'ha una cena domenica sera. Bombolo c'ha la domenica sera. Pranzo e cena. E cena domenica sera. Voi invece avete domani sera. Azzurri. Un ringraziamento particolare a tutte quelle della cucina che si danno veramente tanto da fare, e è una cosa stancante. Le ringrazio con tutto il cuore. Se ti può interessare, Enzo, domattina ho un lunch. Lunch dalla finestra. Tutti mangiano dalla finestra, al massimo ce lo puoi avere. E siamo arrivati in fondo. Probabilmente volevo farvi altre domande, ve le dico una sola. Pensate anche ai gadget del vostro cantiere, voi della mascherata? Ovvio. Sì. Sì, no, qualcuno sì, qualcuno no. No, noi ci abbiamo proprio il responsabile gadget. Ah, ok. L'ispettore Garza. Allora, no, questo perché alcuni di voi stasera hanno già le vostre felpe, ma insomma volevo ricordare a tutti che se siete simpatizzanti di uno dei quattro cantieri, la domenica trovate dei banchini dove si possono acquistare tutto quello che è il merchandising. Esatto. Ragazzi, anche il maquillage. Ma questa è un'altra cosa. Questo ti riguarda te nell'intimità, lascia stare. Siamo arrivati veramente alla fine. Ora dobbiamo salutarci, quindi passa un altro quarto d'ora, però vabbè, ce la possiamo fare. No, Marzi, inizia a ringraziare e salutare, vai. Volevo ringraziare me stesso, perché anche stasera ho mantenuto la calma e sono stato abbastanza. Ah no, non era questa. Quella era la pasticca. Era la pasticca, ok. Volevo salutare Virginia ed Elena del cantiere dei Nottamboli. Ciao, forza ciao. Nottamboli. Silvia e Simona del cantiere dei Rustici. Ciao, ciao, forza Rustici. Forza Rustici sempre. Paola e Chiara direttamente. Scusate, da Sanremo no. Paola e Sabrina del cantiere degli Azzurri. Ciao, forza ciao, Azzurri. Che vinca meglio. E Barbara e Sara del cantiere di Bombolo. Ciao, che vinca Bombolo. Benissimo. Allora, grazie veramente a tutti, grazie per averci ascoltato, grazie a Simone, grazie a Paolo alle riprese che stasera non avevamo salutato. L'appuntamento è per giovedì prossimo, caro mio Marzi, con per la prima volta nella storia, sì, lo voglio dire perché questo è importante. Sì. Per la prima volta i quattro presidenti dei cantieri si ritroveranno in pubblico e commenteranno il verdetto. Non so se verranno tutti e quattro. No, se sono dei signori e sono corretti, ci devono verranno essere. Loro. Okay. Io vediamo. Ok, quindi l'appuntamento è per giovedì prossimo. Grazie ancora a tutti. Ciao. Viva il carnevale, viva Radio F. Ciao, ciao, ciao. Buon ascolto. Avete? Avete? Non avete? Avete ascoltato adesso? Piazza Alta, un programma di e con Marzi e Enzino. Insieme a tante persone questa sera, la conduzione tecnica c'era Simone. One. E alle riprese Paolo. Aulo. A giovedì prossimo. Buon ascolto. Ossimo. Pi.